ho più vuoti da colmare, ho le notti un po' speciali. Perderti mi fa male, ma devo andare via, un giorno passerà. Lascia che sia un ricordo per me, che non butterò via. Mi manchi se te ne vai, ma vicini a te, più lontani che mai. Scusami, non sono un po' distante, faccio sempre voli strani, immaginando il mio domani. Forse tu non mi ascolterai, ma io sono qui per cercarmi ancora. Lascia che sia un ricordo per me, che non butterò via. Show.